Moon Talk, Sputnik on Radio. Città del Capo, Radio Metropolitana 94.7, 96.2.50, siete su Muntok con Chiara e Marta e stasera, cioè mercoledì 12 maggio, parliamo di Dissonanze, un festival che si tiene a Roma, a Palazzo dei Congressi. Quest'anno è la 10ª edizione e si terrà dal 21 al 23 maggio. E quindi iniziamo un po' però dall'inizio. Dall'inizio, infatti dal 2000. Dal 2000. Appunto, primo anno di attività, e il Festival di Dissonanze sperimenta il rapporto tra creatività e tecnologia, la ricerca di corrispondenze inedite tra universi immaginari visivi, sonori e architettonici. Addirittura. Assolutamente sì. Beh, hanno scelto bene allora il infatti, Palazzo dei Congressi. Infatti. Ci ascoltiamo subito un pezzo? Ah, ok. Cosa ci ascoltiamo? Un gruppo che, che è andato a Dissonanze nel, mi pare, 2006. Mm-hmm. I Matmos. I Matmos con Roses and Teeth for Ludwig Wittgenstein. A newborn child has no teeth. A goose has no teeth. A rose has no teeth. This last, at any rate, one would like to say, is obviously true. It is even surer than that a goose has none, and yet it is none so clear. For where should the rose teeth have been? The goose has none in its jaw, and neither, of course, has it any in its wings. But no one means that when he says it has no teeth. Why, suppose one were to say, the cow chews its food and then dungs the rose with it. So, the rose has teeth in the mouth of a beast. The rose has teeth in the mouth of a beast. The rose has teeth in the mouth of a beast. The rose has teeth in the mouth of a beast. This would not be absurd because one has no notion in advance where to look for teeth in a rose. Connection with pain in someone else's body. Pain in someone else's body. Mouth of a beast. quindi mi correggo subito invece okay. Perché i Matmos che abbiamo appena ascoltato hanno partecipato ben 3 volte, la prima nel 2001, la seconda nel 2003 e la terza nel 2005. Adesso okay. Magari Chiara ci racconta un po' di storia di dissonanza. Sì, beh, prima volevo dare le coordinate, cioè moontalkradio.blogspot.com per le altre puntate e poi Gmail, moontalkradio@gmail.com. Quindi parliamo di dissonanze, che è il primo e più importante, forse, festival. Sì, ma... italiano dedicato alle arti e alle musiche elettroniche e digitali di diversi ambiti, quindi concerti, laptop e DJ set, ma anche installazioni multimediali, VJ performances e proiezioni. Il festival, come dicevamo prima, si svolge a Roma, la prima edizione è stata nel 2000, presente ogni anno artisti affermati insieme a artisti invece emergenti, opere conosciute quindi e meno comunque mi sono persa. Beh dai, dicevamo che il concept no. Prima abbiamo detto che la sede è il Palazzo dei Congressi, però non solo, infatti dissonanza è molto bello anche perché spesso si va a finire in contesti sì. abbastanza sì, giusto. Dal chiostro del Bramante, esatto. L'anificio, l'ex vanificio, l'ex mattatoio del quartiere Ostiense. E, poi hanno fatto delle cose nella stazione Termini, mi sembra. Sì, qualche anno fa. Insomma, sì. Spaziano un po' per è il molto panorama bello, romano. Molto bella la location. E quindi il concept, il gioco del curatore del festival o dei curatori del festival ogni volta è proprio quello di affacciare opere e performance diverse, stimolare gli artisti verso collaborazioni e creazioni inedite nel nome quindi della sperimentazione. Ad ogni edizione, insieme agli spettacoli più consueti, Dissonanze propone nuove esperienze di musica visiva, spettacoli quindi totali e immersivi in grado di stravolgere la normale dimensione percettiva e il normale coinvolgimento del pubblico. Ci ascoltiamo qualcuno in grado di sì, fare tutto ascoltiamo, ciò? Ascoltiamo Ben Frost che si esibe come si dice? Esibirà quest'anno. Ben Frost è nato a Melbourne in Australia, adesso invece vive a Reykjavik in Islanda. È un musicista, compositore e produttore. E, insomma, il suo primo EP è stato Music for Sad Children nel 2000. Da poco poi insomma è venuto a conoscenza del pubblico elettronico. Andiamo a sentire quindi Stop, che ho ripreso da un sampler della Bedroom Community, l'etichetta per cui fa uscire i suoi dischi adesso. Ben Frost.

separating day and night. I am death, cried the vulture, for the people of the light. Light. Charon brought his raft from the sea that sails on souls. I saw the scavenger departing, taking warm hearts to the cold. He knew the ghetto was a haven for the meanest creature ever known. In a wilderness of heartbreak and a desert of despair, evil's clarion of justice shrieks the cry of naked terror, taking babies from their mamas, leaving grief beyond compare. So if you see the vulture coming, flying circles in your mind, remember there is no escaping, for he will follow close behind. Only promise me a battle, battle for your soul and mine, and mine. E quindi questa era la voce di Jill Scott Heron, diciamo un attualissimo ritorno che avviene dopo, mi sembra, una decina di anni, perché nel 2001 Jill Scott Heron fu arrestato per reati di droga e per violenza privata. Apparentemente la morte della madre, le spese per il funerale, la cocaina lo portarono a una spirale abbastanza negativa. Uscito in prigione l'anno dopo, lavorò con i Blacklicious e poi, insomma, iniziò a lavorare su l'album che è uscito adesso, da cui abbiamo tratto appunto Me and the Devil, che sarebbe I'm New Here. Comunque Jill Scott Heron, ve lo consigliamo, è un poeta e musicista statunitense. Nato nel 49, conosciuto principalmente per i suoi lavori della fine degli anni 70 e 60, come autore di spoken word, cioè la poesia recitata su basi musicali, insieme al suo attivismo militante afroamericano. Infatti lui è sempre stato abbastanza critico delle amministrazioni della Casa Bianca sui temi afroamericani. Heron è famoso in particolare per la sua poesia canzone che abbiamo ascoltato prima di questa, cioè The Revolution Will Not Be Televised. Passiamo al 2009, sì, in cui si sono esibiti But for Lashes. Ora mi, sì, viene in mente solo, sì, anche a me, infatti, solo lei. Questo perché volevo farvi sentire un gruppo abbastanza nuovo, cioè tipo che risale al 2008. Si chiamano Salem e provengono dagli Stati Uniti, in particolare da New York. Alcuni componenti sono di New York e altri di Chicago, e fanno dell'elettronica molto dark. Hanno all'attivo solamente due EP, tra l'altro il primo si chiama Yes, I Smoke Crack. Il secondo si chiama solamente Water, e vi faccio sentire una canzone che si chiama Tent. Tent, sì. Dei Salem. Yeah. Yeah. No, no, I get you. I see, I get what you're coming from. I get what you're coming from. But I'm about to say I'm never hard. Say bitch, you alone, alone, loud with the flesh, flesh, loud with thongs, thongs. Say I'm now with her, my mind in the street, street. I say I'm now with me, I'm a sheep, I'm a sheep. She say I'm now with her, say bitch, you alone, alone, loud with the flesh, flesh, loud with thongs, thongs. Say I'm now with her, my mind in the street, street. I say I'm now with me, I'm a sheep. I would leave it. It's not that I won't be somewhere else. I don't wanna be here by myself. If you were here too, I'd still be near myself. I talk real loud so I can't hear myself. I'm far away, lost, and I don't want help. If you could bring me back, I kill myself. It's not myself, that's just myself. I don't know if you could tell, but I'm in hell. I don't know if you noticed, but I haven't spoken. My arm might be broken. I'm so sick of joking. I'm sick of your talking. Your words had no meaning. I don't like your body. Don't think you should feed it. Don't think that you want it or like it or need it. So why do you keep it if you're free to leave it? Say I'm never hungry. I'm safe as you alarm. I'm loud with the flesh, flesh loud with thongs, thongs. Say I'm now with her. My mind in the screen, screen. I say I'm now with me. I'm a shoe, I'm a shoe. She say I'm now with her. Beast you along, long, loud with the flesh, flesh, loud with thongs, thongs. I say I'm now with her, my mind in the screen, screen. I say I'm now with me, I'ma shoot, I'ma shoot, shoot. Damn, we planted seeds, but they just won't grow. You lie, you should help yourself, you just don't know. You ain't out in the wild, you ain't up in the snow. And I see it's warm, how you know what the fuck it feels like? Get my knuckle white as hell, by the damn phone that I could tell. E quindi questo brutalmente tagliato. Erano i Salem, sì. Che pare siano stati anche fischiati a Dissonanze 2009. Non si sa, non conosco il motivo, ma leggevo nelle varie recensioni del 2009 che la gente delle ultime file gli urlava basta. Ah. Sempre nel 2009 c'era anche Mikachu and the Shapes, che apparentemente c'entra forse ben poco con sì, ma infatti con Dissonanze. Non è quello che ti aspetteresti. Però c'è anche da dire che... Però anche Bad for Lashes, che abbiamo nominato prima. No? Sì, però magari lei forse ha qualche sonorità un po' più elettronica, mentre Mikachu and the Shapes è proprio tutta elettrica. Sì, è tutta elettrica, non c'è nessun componente di musica elettronica, però il disco di Mikachu è uscito per l'etichetta di Matthew Herbert, quindi insomma evidentemente aveva visto sì. Qualcosa boh. Su quelle corde, sì. Diciamo di sì. Ci ascoltiamo un classico pezzo, un classico proprio. Cioè leggilo Golden. Tu che da qui phone. Non riesco a leggerlo. Mikachu and the Shapes, Golden Phone. Thank you. quindi questo era Mikachu and the Shapes con Golden Phone tratto dal suo disco Jewelry, prodotto proprio da Matthew Herbert. Leggevo di Mikachu che praticamente lei usa strumenti poco ortodossi, che costruisce manualmente, tipo utilizza aspirapolveri, bottiglie rotte, cose di questo tipo per produrre i suoni che abbiamo appena sentito. Sì, è tra l'altro molto carina, molto giovane. L'hai vista? Ha suonato al Covo, mi pare. No, non l'ho vista, però ho visto qualche video. Io invece l'ho vista, non al Covo, però dal vivo non ha reso così, no. Sono sempre delusioni. No, alla fine secondo me, cioè, una buona produzione si sente molto su disco, mentre magari dal vivo, insomma, certo, non c'era Herbert. Ci dovrebbe fare essere qualcos'altro, però, no? Sì, però non c'era. No. Vabbè, quindi dobbiamo dire che però Dissonanza è nato nel 2000 come Showcase, una selezione di artisti internazionali poco conosciuti per un evento a carattere indie, quindi indipendente. La prima edizione è stata ideata con l'intento di mettere in luce un ambito musicale ben specifico che in Italia non aveva ancora trovato il giusto spazio, cioè quella della musica elettronica tedesca. Le successive hanno avuto un carattere più internazionale, seppur sempre altrettanto indipendente. Nel corso degli anni è stato privilegiato in modo sempre più incisivo l'aspetto curatoriale, e quindi si è cercato di sviluppare una cornice ideale a ogni, cioè, progetto artistico. Quindi, che cosa facciamo? Andiamo a sentire un pezzettino mio? Ok, io direi di andare a sentire un... In realtà... Io intanto cerco il mio pezzo di Moderat che non ricordo dove ho messo. Cercavo di perdere un po' di tempo. Andiamo a sentire Carl Craig e Mortins von Oswald, che non suoneranno insieme a Dissonanze quest'anno. Suonerà Mortins von Oswald Trio, che è quindi un trio formato da Vladvits Dei, cioè un prodigio finlandese, e Max Loderboger e Tobias Freund. Siccome è un progetto più che altro che è nato da pochissimo e si esibisce soprattutto live, vi faccio sentire invece il progetto di Carl Craig e Mortins von Oswald, che sono usciti con questo come si chiama? Recomposed, e vi faccio sentire Movement 5, una breve parte di questo brano. Thank you. Quindi questo era Movement Part 5, un pezzettino di questo brano di Carl Craig e Martin von Oswald che trovate, bla bla bla bla, non mi ricordo più, su Recompose, mi sfugge sempre. Martin von Oswald sarà presente a Dissonanze con il suo trio, formato, mi correggo, da Martins, Vladislav Diley e Max Londerborg. Vabbè, qualcosa proprio del ci tenevi a ridire i tre nomi. Non c'è Tobias Frond, che invece era con Max, lo chiamiamo così, nel progetto NSI. Dicono che è molto bello vederli sul palco insieme, e che anche l'album uscito l'anno scorso su Honest Jones è molto bello e si chiama Vertical Ascent. Io invece nel frattempo ho trovato il Moderat. Sì. E, vabbè, Moderat è un progetto di musica elettronica nato a Berlino nel 2002 e è risultato la collaborazione tra Apparat, mm-hmm, molto famoso, vabbè, che conosciamo, e si chiamano Mod Selector, che sono due DJ. Il loro primo EP risale appunto al 2000, ma il loro disco è stato pubblicato solo 7 anni dopo. Infatti nel 2009 Moderat suonava a Dissonanze. Ci ascoltiamo il loro pezzo, il primo singolo tratto dal disco, e ci ascoltiamo la canzone A New Error. Thank you. A New Error di Moderat, che ha partecipato a Dissonanze 2009. Sempre nello stesso anno parteciparono anche i Flying Lotus, di cui abbiamo parlato forse nella scorsa puntata, li abbiamo messi quando si parlava di Warp, o non li abbiamo messi? Non mi ricordo. Non li abbiamo messi, ma abbiamo messo forse un remix loro, probabilmente, ricordo vagamente. Sì. E vabbè, Flying Lotus, è difficile definire il loro genere, infatti... Fai versi, Marta. Sì, muovo le mani. Vabbè, stavo dicendo che è un po' difficile definire un loro genere, perché infatti mescolano ritmiche tipiche dell'hip hop con atmosfere dubstep e a tratti anche un po' lounge. Sì, che stanno benissimo nella warp. No, loro etichetta. Sì, sì, sì, molto bene. Vi faccio sentire un pezzo tratto da Cosmogramma, che è il loro secondo disco dopo Los Angeles. E ci ascoltiamo il pezzo, Chiara, dillo tu. Do the Astral Plane, Flying Lotus. Thank you. questo era il bellissimo Flying Lotus con Do the Astral Plane, un pezzo bellissimo, grazie Marta. Ti stupisco ogni tanto. Ogni tanto ci troviamo d'accordo, incredibilmente. No, ballavamo qui a Città del Capo. Quindi... Ma tu forse... Scusa. Comunque, quindi parlavamo di Flying Lotus, anche perché appunto fa parte della Warp, su cui abbiamo fatto una puntata che sicuramente avete sentito. Comunque, anche sulla Warp da quest'anno si trova Gonja Sufi, che abbiamo fatto sentire una volta con Cowboys and Indians, sempre a puntata sulla Warp, mi sembra. Sì. Comunque vi riassumo che Gonja Sufi si chiama in realtà So Much Valentine, che è uno sciamano, ma anche insegnante di yoga, filosofo, un po' di tutto, insomma. È una persona molto creativa ed è anche la voce e la creatività dietro a, appunto, Gonja Sufi, che è stato apprezzato tra l'altro dallo stesso Flying Lotus che avete sentito adesso, da The Gas Lamp Killer e Mainframe, che hanno lavorato al suo ultimo, cioè il suo album A Sufi and the Killer, che è un disco che intreccia sia la psichedelia che l'hip hop. È uscito quindi per la Warp. Andiamo a sentire in chiusura Ship, che è un bellissimo pezzo. Vi salutiamo. Non abbiamo la più pallida idea di cosa proporvi la prossima settimana. Quindi se avete idee... No, tra l'altro ci hanno suggerito qualcosa, devo andare a riguardare. Sì, sì, chi sì, ci sì. ha suggerito? Vabbè, adesso non riesco a dire il nome qua. Però sì, ci hanno suggerito, quindi continuate così. Noi soprattutto faremo da adesso in poi, penso, festival, no? Vi suggeriremo festival interessanti che ci sono in questo periodo in giro per il mondo. Quindi se avete soldi dateci fiducia e andate. Andate a Dissonanze. Noi ricordiamo quando si terrà. Dal 21 al 23, mi sembra. Maggio. Maggio a Roma. Andate sul sito, che è? Il sito di Dissonanze. Io non ce l'ho scritto. Dissonanze.it. No, non lo so, sinceramente. No, vabbè, se andate su Google, insomma... Diamo un po' di fiducia anche a loro, non saremmo. E quindi scriveteci su moontalkradio@gmail.com, sentite le altre puntate e lasciate commenti, perché veramente siete incredibili, non lasciate neanche un commento. Solo da Chiara da anonima. Marta. su www.moontalkradio.blogspot.com. E diventate nostri fan sfegatati su Facebook e basta. E vi lasciamo quindi con Gonja Sufi. Con Ship. Ship. Beh. You are my shepherd, babe. I wouldn't have it any other way. My heavenly shepherd. Shepherd, babe, you're such a good shepherd. Oh, heavenly shepherd, babe, we wouldn't have it no other way. La, la, la, la. I wish I was a sheep instead of a lion. And I wouldn't have to eat, and I'm almost at a dying. I wish I was a sheep instead of a lion. And I wouldn't have to eat this meat that is dying. I wish I was. Oh. the sheep. I have to be quick on my feet. Running away all day from a lion is trying to eat. Subdued enough to greet one of my fellow sheep. Living so humbly, sympathetic with harmony. So no one says.